Andiamo in giro a intervistare gente e volevamo farle alcune domande. Non personali, Sentiamo solo se sono domande un'opinione. che posso rispondere o meno. Lei è di Sione? No. Secondo lei, come gli adulti vedono i giovani? Insomma, gli adulti vedono i giovani un po' fortunati, insomma, praticamente, perché paragonando quando erano giovani gli anziani era molto più difficile. Adesso invece, finora, secondo me, sono fortunati. E invece il contrario, come i giovani vedono gli adulti? Ah, questo non lo so. Secondo il suo punto di vista? Non lo saprei proprio. Perché io ormai non sono più giovane, non posso rispondere. Ok, Ok, grazie grazie mille. Prego, prego.